sono a Genova, che sono a Roma, che sono in giro, sono uno dei tanti tasselli che permettono di costruire dal basso e fuori dalle categorie precedenti percorsi di sapere, di intelligenza, che vengono socializzati in più occasioni. Bisogna chiedere al nostro mitico Stan Lee. Ti chiedeva se è disponibile questo video, Nicola. Sì, 1, 2, 3, prova. Cosimo c'è? Stefano Righetti c'è? No, Stefano aveva detto che Cosimo c'è. Ok, allora io direi di iniziare. Stamattina è un momento un po' più raccolto perché cerchiamo di portare un po' a sintesi parziale, ovviamente, il lavoro che si è svolto ieri. Il pomeriggio è stato particolarmente ricco di sollecitazioni. Io suggerirei di fare insomma un rapido report dei tre tavoli e poi di avviare qui anche con gli amici presenti un po' di discussione, e tu Cosimo, quando vuoi intervenire dopo le sintesi, alzi la manina che noi sappiamo che chiedi la parola. Bene, allora buongiorno, è una domenica uggiosa, molto milanese, è un po' difficile dare una sintesi compiuta di quanto è emerso ieri. Io partirei con l'ordine dei tavoli, quindi Ubaldo ti lascerei la parola col supporto di Marco Tronconi. Prego. Allora sì, da quello che abbiamo, non dico discusso, ma insomma messo sul tavolo ieri, sono venute fuori delle sollecitazioni, degli stimoli per portare avanti la ricerca, credo abbastanza significativi. C'è stato anche un po' di discussione tra di noi perché abbiamo articolato insomma tre riflessioni legate tra di loro, perché il tema era chiaro, insomma, no? L'elemento in comune era ben definito, e c'è stato, diciamo così, nel nostro tavolo l'individuazione di un rapporto che non è facile da realizzare, da curare, ovviamente poi figuriamoci da sviluppare, tra un'attenzione più propriamente di taglio sociologico alle complicazioni che ben conosciamo, che viviamo sulla nostra pelle del quotidiano, e un'altra linea di ricerca, un altro piano, un altro taglio più propriamente filosofico, filosofico, morale, si potrebbe dire, recuperando un po' vecchie etichette, e filosofico politico. Quindi due approcci che si sono manifestati in maniera chiara, credo, spero, insomma, nel mio intervento più attento alle potenzialità, no, di uno sguardo appunto soprattutto in prima battuta sociologico rispetto alle problematicità insomma del quotidiano, una attenzione che si è esplicitata soprattutto nell'intervento, adesso poi magari Marco potrà ancora aggiungere, no, un cappellino, qualche cosa, un'attenzione da parte di Marco Tronconi a una lettura invece attenta a individuare questo movimento, questo processo che è un movimento da una parte di resa istituita comunque della dimensione del quotidiano, e però nello stesso tempo, dato che si tratta di un movimento, anche a un certo punto di messa in sollecitazione, in discussione, in critica seria, insomma, no, di ciò che risulta comunque, anche vagamente in momenti complicati come il nostro, risulta un po' istituito. In questa ottica, in questa prospettiva, mentre io, per quanto riguarda il piano sociologico, ho fatto riferimento, va bene, classicamente a Sennett, perché consente, insomma, di arrivare a leggere bene questa confusione, questa fusione oggi nel nostro quotidiano del tempo di lavoro tradizionalmente inteso e di ciò che una volta era considerato banalmente ancora tempo libero. Oggi quella coppia lì, no, ci dicono i sociologi, per non parlare poi dei nostri, ma insomma prendo in considerazione i classici, ci dicono che quella coppia, appunto, le trasformazioni del quotidiano sotto veste soprattutto domestica non regge più. Queste trasformazioni ci dicono che questa coppia, come l'abbiamo sempre comunque pensata, non ci aiuta a capire quello che sta succedendo, quello che è successo e quello che sta accadendo. E va bene, poi ho detto, ho cercato di dire anche altro, ma fondamentalmente mi interessava verificare come questo configurarsi diverso, differente del quotidiano come oggetto d'analisi possa forse aiutare anche ad arrivare maggiormente in prossimità di quei piani che ci restituiscono della nostra esistenza le trasformazioni, tra virgolette, ovviamente senza esagerare, del nostro modo, dei nostri modi di sentire, dei nostri modi di pensare, di relazionarci. Insomma, il quotidiano è comunque un oggetto degno di attenzione, per dirla in termini un pochino come sono venuti d'altra parte fuori anche dall'intervento di Gianluca De Fazio, molto articolato, molto ricco. Il quotidiano appare oggi sempre di più quello che è sempre stato, ma lo è oggi in termini originali, in termini che meritano un po' più di attenzione. Il quotidiano è uno spazio di affezione. Il quotidiano è uno spazio straordinario di affezione, cioè ciò che accade nel quotidiano ci restituisce con, esagero un po', mi scuso di questo, con la massima freschezza possibile delle trasformazioni e dei cambiamenti che vale la pena prendere in considerazione. No? Il quotidiano è uno spazio di affezione, forse lo spazio di affezione proprio per il fatto che, lo abbiamo verificato nella pandemia, lavoro si fa per dire e non lavoro nel quotidiano oggi si combinano, si confondono, tanto che quella coppia a cui ho fatto riferimento, la coppia tradizionale tempo di lavoro e tempo libero, tempo di non lavoro, effettivamente, come l'abbiamo pensata una volta, ripeto per essere noioso e chiaro, non regge più. Marco Tronconi nel suo intervento ci ha restituito questa, tra virgolette, dialettica, soprattutto tra movimento e istituzione, per riprendere concetti che hanno una loro storia a volte anche variopinta, insomma, Marco ha cercato di restituirci, insomma, questa particolare, singolare dialettica, soprattutto proponendoci a livello di semplificazione, ma insomma, qui poi magari potrà aggiungere qualche cosina, il lavoro di Ivan Illich, no? Che è un autore che, come sappiamo, ha attraversato vite, esistenze teoriche, non soltanto teoriche, di studiosi che ci sono cari, no? E basti pensare a Marcuse, a Gorz, a tanti altri. Ecco, è riuscito a proporsi, a darsi, a regalarci qualche cosa in questi termini attraverso una critica particolare di tutte le forme, le dinamiche, meglio, di istituzionalizzazione che, direi una sciocchezza a dire che si vogliono, si pretendono definitive, non è così, che comunque, no, assumono nel loro porsi, proporsi una veste che non è sempre rispettosa poi, no, di ciò rispetto a cui si dovrebbero mettere a servizio, cioè i nostri bisogni, le nostre aspettative, i nostri desideri, insomma, le esigenze delle persone, dei soggetti. Ecco, questa semplificazione, a modo mio, adesso poi a me tocca il ruolo oggi di coordinatore, ieri ero leggermente più laterale, questa semplificazione mi sembra particolarmente stimolante, no? È stata utile, ecco, è stata utile, devo dire, ieri, per dare un attimo anche più sostanza alle nostre riflessioni. Gianluca De Fazio, l'ho già detto, si è mosso in una prospettiva anche lui di rilevazione delle complicazioni che derivano anche da una proiezione che si vuole teorico-critica, insomma, di interessi, di attenzioni sempre al piano del quotidiano, inteso anche come combinazione, complicazione di spazi, no? Quindi vera e propria complicazione, quindi di spazi che da una parte ribadiscono l'importanza, dato che si tratta di spazi, l'importanza di affinare degli strumentari che possiamo etichettare, insomma, qualificare come propri del discorso dell'ecologia politica, insomma, no, dell'ecologia critica, poi se non vogliamo dire ecologia politica. E però, appunto, io l'ho presa così ieri la sollecitazione di Gianluca De Fazio. Oltre a questo, oltre a ribadire questo, che non è poco comunque, no, ribadire l'importanza, insomma, di affinare quello che è proprio, che è lo specifico dell'ecologia politica, dell'ecologia critica, per gettare uno sguardo, guardare meglio, insomma, la complicazione degli spazi di vita nei quali ci troviamo. Ecco, oltre a ribadire questo, però, ha detto qualche cosa per me, per noi, no, Marco, particolarmente significativo, perché ha detto anche, o ha fatto capire, un qualche cosa che è venuto fuori, almeno questa è la mia impressione ascoltando anche gli altri tavoli, dando anche l'idea che il discorso dell'ecologia politica o dell'ecologia critica è importante, ma a parte che a volte può assumere dei toni un po' moralistici, e quindi bisogna fare particolare attenzione, insomma, quando ci si entusiasma o ci si concentra un po' troppo, ci si fissa, insomma, no, su certe articolazioni dell'ecologia critica, dell'ecologia politica, perché anche giustamente, insomma, comunque poi nel loro impiego, nel loro utilizzo ci permettono di capire meglio quello che sta accadendo. Però al di là di questa mia rilevazione, ecco, voglio dire che se c'è qualche cosa che a mio modo di vedere, stando dentro il tavolo sul quotidiano, è venuto fuori da questo tavolo e che ho avvertito, sentito anche come vicino a qualche cosa che è venuto fuori negli altri tavoli, poi dagli altri tavoli sono venute fuori tante altre cose, però io ho avvertito in modo particolare questo, è che il discorso dell'ecologia politica, dell'ecologia critica, è un discorso importante, ma non sufficiente. importante ma non sufficiente, cioè non è in grado di arricchire, diciamo così, lo strumentario concettuale di analisi, di analisi, di riflessione, quello indispensabile al nostro modo di vedere, ma insomma, ecco, per affrontare quello che ho definito come momento reale, momento concreto, forte, di complicazione della nostra vita quotidiana, del nostro quotidiano. Ecco, questo è un punto interessante, adesso non voglio farla troppo lunga, Tiziana, puoi fermare. È un punto interessante perché nella nostra esperienza, no? Come Mille Piani, come Urban Mille Piani, ma insomma come Mille Piani, nella nostra esperienza complessiva come Mille Piani, abbiamo, adesso non voglio cantarmela, abbiamo avuto, tra virgolette, il merito, con i nostri limiti ovviamente, di proporre, no, il fronte dell'ecologia politica, insomma dell'ecologia critica, come importante e necessario, insomma ormai un sacco di tempo fa, e lo abbiamo anche abbastanza curato, insomma lo abbiamo ben sostenuto e alimentato questo fronte qui, però nel momento in cui abbiamo progettato di farlo e l'abbiamo pensato e abbiamo cercato con le nostre forze di dare un contributo in tale direzione, nel momento in cui è successo questo, ecco, siamo sempre stati accompagnati, qui credo che con Tiziana siamo in totale sintonia, se permettete questa divagazione, siamo sempre stati accompagnati dalla convinzione che il discorso, dico discorso tanto per intenderci, dell'ecologia politica, dell'ecologia critica, fosse un discorso importante da combinare e da comporre con altri piani di ragionamento e di riflessione. Senza tirare in ballo, è anche inutile farlo, no? Quello che sosteneva tanti anni fa ormai Gorz, no? L'unica ecologia politica critica che vale la pena curare e sostenere è quella che rileva come le nefandezze, le devastazioni a livello ambientale, a livello sociale, a livello insomma anche poi alla fine mentale o comunque psicofisico, se hanno molte cause, una importante che non è mai da sottovalutare, anzi tutt'altro, deriva dal fatto che viviamo in una società dove il funzionamento, la logica di funzionamento dominante è quella rivolta sempre e comunque alla massimizzazione dei profitti. Quello è ciò che conta, la dominante è questa qui, poi sulla base dell'articolazione, dell'imposizione, dell'affermazione di questa fondamentalità, tutto può essere alla fine piegato, impiegato, prezzato, sacrificato, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un punto importante, però adesso finisco veramente, poi se Marco ho dimenticato tutte e poi vediamo se ho dimenticato qualche cosa, però ecco, questo è un punto importante, quindi centralità, no, centralità è brutto dirlo, rilevanza del motivo del quotidiano, perché il quotidiano è uno spazio veramente in trasformazione, in radicale trasformazione, e dato che è uno spazio fondamentalmente in prima battuta di affezione, ecco che un'analisi, un'indagine seria di ciò che accade all'interno di questo spazio ci può restituire qualche cosa di interessante. Fermo qui perché sennò poi debordo. No, ma tanto poi abbiamo tempo di dibattere assieme. Adesso, per restituire la sintesi del secondo tavolo, che era quella che insomma metteva al centro la questione della critica dei territori, dello spazio urbano e quindi delle tecniche, tecnologie di controllo, riprendo un po' a coda la chiusa del primo tavolo, ossia già da due numeri noi abbiamo deciso, prendendoci il lusso e il tempo di riflettere con calma, di definire con chiarezza il perché di questa parzialità che un po' avvilisce, no, il terreno dell'ecologia, diciamo, strettamente ambientalista, e come riposizionarlo all'interno di un filone di pensiero, che è quello del pensiero critico, che ha i suoi fondamenti materialistici. Ecco, in una situazione come quella attuale, dove le sfide del quotidiano sembrano talora impedire l'elaborazione di prospettive, aver collocato questo volume dentro questa definizione temporale chiara, ma anche in una spazialità altrettanto chiara, a mio avviso, ha voluto dire far emergere discorsi come quelli che sono stati poi i contributi di ieri, cioè i contributi di Francesco De Mitri, di Cosimo Lisi, di Stefano Righetti, che cercherò, insomma, di riprendere in una qualche maniera, connettendoli anche con quello che è il mio pensiero da lungo tempo, e che cioè la tirannia dell'accelerazione e dell'istantaneità ha delle ricadute sullo spazio delle configurazioni quotidiane attuali, e in ogni caso queste configurazioni ben decifrabili nei territori metropolitani in realtà poi si estendono nel loro modo di definire i modi di vita un po' in tutti i territori che immediatamente metropolitani sembrano non essere. Allora, in questo senso Francesco De Mitri ha messo l'accento su Gaia, naturalmente, Lovelock, ma soprattutto su Paul Virilio. Voglio ricordare che Paul Virilio, autore, insomma, dalle fortune molto alterne, in verità è qualcuno che ha lavorato sul rischio dell'incidente e sul rischio dell'incidente in spazialità dense e configurate da per tantissimo tempo, che per Virilio il problema dell'accelerazione diventava anche un problema di totale espropriazione delle condizioni di vita minime, e che accanto a questo, insomma, la mercificazione, no? E qui De Mitri faceva riferimento a Lefebvre, del tempo in qualche modo produce delle strategie che sono necessariamente incidentali. Ecco. Successivamente Cosimo Lisi ha ricostruito anche un po' storicamente, e facendo riferimento alla realtà francese, ma insomma a tutto il suo portato coloniale, ai modi in cui si costruiscono gli spazi urbani, no? Che non sono mai modi neutrali, ovviamente. Una città si costruisce in ragione delle sue forme d'uso, per cui se c'è una città, come il modello osmaniano suggerisce, che è una città dove il governo già militare del territorio diventa il primo passaggio, c'è anche una città che in questo momento governa un tessuto sociale sempre più complesso con apparati di controllo sempre più sofisticati. Qui Righetti si riagganciava suggerendo, a mio avviso, una suggestione molto importante, no? Perché sembra che il controllo sia sempre letto in maniera, come dire, verticistica e verticale, cioè calato dai poteri. In realtà domande di controllo, domande securitarie possono emergere anche da un sociale spaventato, da un sociale fragilizzato, e giustamente Stefano sottolineava come tutto questo ci debba necessariamente far riflettere che non tutti i movimenti sociali sono necessariamente qualcosa da cogliere in maniera festosa. Qui mi permetto un rimando a Gattari, insomma, quando Gattari si chiedeva ma le masse sono state ingannate riguardo al fascismo, e lui serenamente e giustamente rispondeva: no, le masse non sono state ingannate, le masse hanno desiderato, hanno amato il fascismo. Voglio dire che i segni di insorgenza e mutazione non sono di per sé, come vorrebbe una mentalità positivista, qualcosa di emancipatorio, ma possono essere anche altamente regressivi. E con questo, a mio avviso, noi su scala direi planetaria in questo momento abbiamo a che vedere, più che a che vedere, tornando all'ISI. Infatti Cosimo suggeriva come ormai la logica con cui si governano i territori è una logica di guerra, faceva appello naturalmente alla modalità coloniale di governo dei territori occupati, in specifico poi chiaramente quello palestinese. Io aggiungo a questo, che è un pensiero che mi sento di condividere, poi dirò perché, qualcosa di più. A mio avviso noi stiamo assistendo a dei meccanismi di selezione, è da tanto che insisto, umana, che è una soluzione molto concreta, molto materiale, è una selezione di reddito, di possibilità, è una selezione che chiama in causa il persistere di una differenza di classe, che poi le configurazioni delle classi sociali siano oggi cambiate, ma certamente, ma esiste comunque un problema che si chiama povertà, esiste comunque un problema che si chiama alienazione. L'alienazione si produce in forme diverse, ma certo che sì, però oggi questo vuol dire poter avere o non avere accesso, altro che a bisogni secondari, artificiali, certo anche quelli sono sempre indotti, ma giustamente, come dicevo Ubaldo prima, questa differenza, come anche nella differenza della ripartizione del tempo, è davvero ormai una dicotomia superata nei fatti. Ebbene, oggi quello che si pone con urgenza è che c'è una quota consistente di società, non so neanche se chiamarla società, di ceti impoveriti che vengono espulsi verso dove non si sa, perché i centri urbani più gerarchici sono destinati a certe funzioni e quindi selezionano con i meccanismi classici, no? Prezzi, costi delle case, costi dell'alimentazione, mobilità più o meno insufficienti. Insomma, per contro, i territori dell'abbandono, che una volta serpeggiavano anche nei grandi assetti metropolitani, questi sì che sono sempre più oggetto di una sorta di meccanismo di spostamento, di nomadismo indotto, lo chiamavamo ieri, no? Per cui queste sacche, no, di margine, che poi sono i migranti, che poi sono i poveri, i nuovi poveri, i poveri che ancora di più ci saranno, vengono deportate a seconda delle esigenze col meccanismo, questo sì, classico, possibilmente sparpagliate, no? Cioè l'atomizzazione è il meccanismo che anche Cosimo evocava, e non c'è neanche più tanto l'apparentemente insieme, perché l'insieme dei bisogni secondari oggi, a mio avviso, è qualcosa di molto elitario e per pochi. Dunque mi pare che, insomma, insieme a questo discorso di una critica del quotidiano che fissa una scansione temporale precisa e la decisione nostra di affondarci con le mani e con i piedi per cogliere delle questioni di emergenza e di necessaria, insomma, confronto, ma perché sono le nostre vite, non c'è niente di astratto, è quanto ci attraversa. Idem dicasi per le spazialità. È inutile continuare a riferirsi, come spesso accade, no, con un approccio agli spazi nei quali viviamo che sia semplicemente estetizzante, cioè rappezzo, ricucitura, ricomposizione, quando ciò che è in corso è assolutamente accelerato e violento. E io direi, Igor, che ti passo la parola per il terzo tavolo. Prego. Grazie. Grazie a Ubaldo e Tiziana che sono riusciti a riassumere i tavoli. No, io non ho preparato un vero e proprio riassunto, quindi insomma un po' degli appunti. Beh, insomma, vi restituisco quello che... Scusate. Allora, no, il nostro tavolo è appunto critica delle trasformazioni della sensibilità, comprendeva me, Ivan, poi Pier Giorgio non è riuscito a partecipare purtroppo perché aveva un bel intervento anche sugli aspetti dell'estetica, insomma, di altre faccende. E dico che venuto dopo gli altri ho sentito subito anche delle risonanze, cioè adesso faccio una sintesi tematica, poi vi dico un po' quello di cui abbiamo parlato e che poi mi sembra rilevante, no, come restituzione. Quindi sono d'accordo con te, Tiziana, e con Ubaldo. Allora, primo punto, spazi di vita, no? Problema degli spazi di vita, alienazione, espulsione, insomma quello che hai detto, e un po' rientrava anche in questo tavolo, perché no, essendo venuto dopo e poi essendo quello più aperto, no, chiaramente più si esponeva anche a una maggiore frammentarietà delle possibilità, no? La sensibilità, effettivamente, ne avete parlato tutti, chiaramente. Questo è il primo punto. L'accesso al minimo, di cui parlava Tiziana, è venuto fuori nel nostro tavolo, adesso dirò poi qualcosa di più, però proprio al minimo non dire più sindacale, nel senso di diritti del lavoro, proprio minimo vitale, di sopravvivenza. Sono d'accordo con te. E l'altro punto, sapere, potere, un'altra cosa che è ritornata per stare un po' sulle parole chiave che tutti conosciamo nel nostro tavolo, è emerso, insomma, in quanto come crisi, no? I saperi ormai sono frammentati, disarticolati. Si parlava per esempio della scuola, esperienza, non abbiamo portato in modo sociologico classico, abbiamo cercato di, con Ivan, appunto eravamo solo in due, no? Purtroppo, e quindi dialogando anche un po' sulle nostre esperienze personali, ma un po' di tutti, un po' tutti noi siamo tanto stati a scuola, ma soprattutto proviamo a apprendre, apprendimento, cioè insegnare, apprendere, questi giri, no, di tematici. Mi sono sembrati in risonanza con quello che dicevamo prima, appunto. Allora, il tema dell'apprendimento, un po' della crisi, io ho parlato un po' del problema dell'attenzione, della crisi dell'attenzione, però appunto cercando di far vedere alcune complessità, cioè che appunto l'attenzione è questo tema che è complesso, che forse ci potrebbe interessare, no? Perché sia a che fare con il corpo, e ci arrivo qui ovviamente, ma anche con i corpi in una condivisione di un'aula, di uno spazio comune, e appunto torna il problema degli spazi di vita che tendono a essere, a parte dove siamo oggi, normalmente sempre più, ancora una volta, frammentanti, disgreganti. Quindi c'è da una parte questa faccenda qui e dall'altra il tentativo di resistenza, quindi di capire come l'attenzione possa essere riproposta come tematica, diciamo critica, ma in che modo è. Bisogna entrare dentro al meccanismo, per esempio, della DAD, di come si sta davanti a uno schermo, di come l'algoritmo cerca di catturare appunto l'attenzione e di come noi facciamo attenzione, cioè cerchiamo di stricarci, di separarci da... Ecco, io ho parlato un po' di queste cose, che rientravano nel tema del funzionare bene, dell'operare bene, cos'è successo nella DAD, si diceva. Abbiamo cercato di funzionare, operare, no, dentro la situazione meglio possibile. E poi si è discusso anche con Ubaldo, no? Tu dicevi, se posso fare un salto in un altro tavolo. Sì, sì, sì, sì. I piani, no, nel senso, ci tu dicevi... Venire, ci fai venire fame. No, vabbè, adesso ripeto, non ho il riassunto, se voi avete fatto i compiti meglio, a proposito no, di... No, nel senso, cosa vuol dire funzionare meglio? No? Appunto, si parlava del non funzionare come tematica di cui abbiamo parlato in questo tavolo. Allora, non funzionare, funzionare meglio, essere disattenti, distrazione da una parte, attenzione dall'altra, con tutto il sistema di valori che c'è dietro, si potrebbe arrivare fino a Foucault, fino a tanti discorsi di dispositivi che vengono insegnati addirittura prima di andare a scuola, cioè devi essere attento, questo è bene, cioè questo è indiscutibile, no? Diciamo che durante l'esperienza di DAD, a livello di sensibilità, di trasformazioni della psiche, del corpo, del ritmo sonno-veglia, di tutto quello che volete, abbiamo capito che l'attenzione ha un valore, e poi non ne ho parlato ieri, c'è anche l'economia dell'attenzione, vabbè, sono anche testi noti che adesso non ho fatto in tempo a evocare, però nel testo, poi nel libro, che del volume che uscirà, ci sono. Per quanto riguarda invece Ivan, vengo anche al mio compagno, nel senso, lui ha fatto una serie di brevi schegge, interventi molto efficaci, anche con uno stile, insomma, siamo stati più veloci come tavolo, mi sono cronometrato, quindi ho forse... no, eravamo... Ha parlato di disobbedienza civile come pratica di vita, dicendo che è interno addirittura alle specie viventi. Ha provato a fare questo tipo di ragionamento un po' complesso. Quindi da una parte, per esempio, il tema della concessione dei diritti, oggi non c'è più, questo aspetto collettivista, ma lui poi l'ha collegato anche alla riforma Gelmini, nel senso che anche lì si è tentato di fare... No, una, vabbè, insomma. Quindi... istituzione scolastica, funzionamento, quello che dicevamo prima, però poi di fatto oggi c'è questo momento di minimo, no? Manca, ormai abbiamo capito che c'è questa crisi, c'è il problema dell'accesso al minimo di cui parlavi tu, anche in termini di saperi. I saperi oggi nella scuola, ahimè, sono, sappiamo, si abbassa sempre di più il livello, ma è un qualcosa di minimo, di energia potenziale che ci potrebbe interessare. Poi l'altro tema, individuo e potere, di cui in fondo parlava Ivan, questa impossibilità di ridistribuire però all'individuo, quindi c'è questa contraddizione, quindi da una parte ti individuano, dall'altra ti individuano in senso negativo, in senso di isolamento, dall'altra non c'è più questo aspetto mutualistico, lui rivendicava la fine di quest'epoca, diciamo così. E sulle nuove generazioni, di cui si è parlato variamente in altri tavoli, Fridays for Future, cioè, lui ha usato, invece ha messo, diciamo così, il riflettore su questo punto, richiamando Darwin, quindi di nuovo il problema della che dicevo prima, della disobbedienza come possibilità, e invece no, qui lui evocava la struggle for life, cioè l'idea che le nuove generazioni hanno ormai incorporato questo tipo di, insomma, di lotta per la vita, ma per affermare l'individuo ancora una volta contro una possibile condivisione, cioè assecondando il discorso della fine del mutuo, no? Appoggio della che potrebbe essere una possibilità, no? Di resistenza. Quindi rilevava anche con una certa concretezza una serie di esperienze, diciamo, non negative, però insomma su cui riflettere, perché se non facciamo ciò parliamo di un'altra cosa, voglio dire, parliamo di... un attimo, distribuzione, sì. Poi c'è stato anche l'intervento di Paolo Gallerani, interessante, che è intervenuto nel tavolo, ricordate, per spiegare come l'algoritmo medico, in questo caso la razionalità, tra virgolette, medica, mandano questi avvisi a chi non si è vaccinato, insomma, una cosa importante, mi faceva piacere citarlo. Quindi concludendo e rilanciando, difficile fare una sintesi di queste cose che abbiamo detto nel tavolo, perché è aperta poi... Però appunto i tre punti della vita quotidiana, degli spazi di vita, dell'accesso al minimo in varie forme, sia proprio vitale, cioè sopravvivere, come dicevi tu, respirare, dice anche quando non riusciamo a respirare, ma anche semplicemente a mangiare, è un tema forte, e anche riferito alle conoscenze, alle competenze che dovrebbe dare l'istruzione, che invece anche lì è tutto così molto sospeso, crollato, disintegrato. Ecco, io trovo che un collante di questi temi è il grande classico, questa è un po' una mia proposta che faccio qui, del tema del corpo, ovviamente. Come momento, corpo, corporeità, momento proprio, mi è sembrato di percepire, un momento concreto, un momento di sofferenza, di incisione, forse però anche di possibilità, no? È sempre un po' questo aspetto qui che abbiamo trattato tante volte. Sempre meno possibilità di futuro, però credo necessario, perché quando tu parlavi accesso al minimo, beh, comunque il corpo è il protagonista di questo accesso al minimo, perché ha i suoi bisogni, no? Non nel senso di, come dire, proprio bisogni anche molto concreti, minimi, però... ed è lì forse che si può organizzare un qualcosa, non so, lo pongo come tematica su cui corpo ovviamente non individuale, ma già come condivisione. È stato evocato anche Basaglia a un certo punto, la condivisione delle sofferenze di una microcomunità, insomma nell'esperienza, diciamo, Io la chiamerei di apprendimento di quel genere, anche se noi solitamente la chiamiamo di cura e va benissimo, però c'è quell'esperienza che va a formare anche i formatori, quindi insomma quel tipo di ragionamento lì su un corpo in sofferenza, un souffrance, un po' sospeso, un po' che non sappiamo più dove collocarlo, però effettivamente da questo tavolo credo che, anche considerando quello che diceva Paolo, no, sul vaccino, ecco, probabilmente è un tema che, cioè, lo diamo tutti per scontato, penso, forse, quindi da sempre, quindi voglio dire, non è, però mi sembra che riemerge, insomma, nella malattia, nella possibilità di un futuro incerto, ma ricordiamoci, e non parlo di soggetto, il soggetto siamo già su un altro piano, stiamo parlando di sensibilità, corporeità, quindi non sappiamo che sviluppo avrà la sopravvivenza del corpo, cioè c'è anche questo di problema, cioè, io dico corpo proprio in questo senso, un po' anche nietzscheano, se vuoi, il corpo inteso come qualcosa che sfugge un pochino, e finisco anche i contributi artistici in questo senso, e me l'ero appuntato lì, forse anche se riguardavano tutti i tavoli, soprattutto i contributi di Vailati mi sembravano, icasticamente riguardavano il corpo, no? C'era anche nel video precedente quello della Marcord infatti è stato abbastanza, forse mi è venuto in mente questa cosa del corpo rivedendo questi scheletri vivi, morti. Poi ci ritorno anch'io su quella cosa. Sì, no, ma infatti è una cosa importante, perché ci facciamo fecondare volentieri anche da altri piani, no? Sì. L'arte, per modo di dire, altro. Sì. Il contributo di Pier Giorgio probabilmente avrebbe dato una sfaccettatura in quella direzione. Adesso io l'avevo letto via mail, quindi anche Elsa, ricordiamo. Sì, ecco, no, sì, perché c'erano appunto e i disegni di Ivan, tra le altre cose. I disegni di Ivan, i corpi di Elsa. Diciamo che la tematica, giustamente, del corpo credo che sia con noi dall'inizio, chiaro, proprio nella dimensione, chiaro, che indicavi tu. In che cosa nell'oggi c'è un ulteriore slittamento? Io credo che sarà materia sulla quale dovremo per forza lavorare, nel senso che la messa a prova durante la pandemia dei corpi è una messa a prova che ci restituisce quel discorso che per me attraversa molto le giovani generazioni, così come le sto un po' intuendo, che sono corpi vissuti come misura della propria individualità ultima possibile. Io credo che, insomma, sia molto complicato per i più giovani oggi rintracciare delle relazioni affettive calde che non siano immediatamente invece spendibili, e laddove il corpo funziona, come dire, come funzionava la forza lavoro per un operaio della prima rivoluzione industriale. È l'ultima cosa che mi resta da mettere in vendita. Io però qui mi taccio, perché chiederei adesso sia a Marco, certo, che a Cosimo e ai presenti di, insomma, continuare a chiacchierare un po' insieme, perché ripeto, è una scommessa quella che abbiamo aperto, no? Lo scorso numero in qualche modo definiva il campo dell'ecologia, da questo abbiamo iniziato a esplorare i territori nuovi. Sì. Cosimo è con noi o? Sì. Aspetta. Se no parte Marco. Ma fagli fare tutto con calma. Lo sapevo che volevi dire anche tu una cosa su questo, ci mancherebbe, ma anzi, era solo un accenno, appunto, per chiacchierare. Nel senso che. Direi che per le 12:30. Allora, grazie anche per questa restituzione, che mi sembra sia stata tra l'altro molto fedele a quello che è successo ieri, e quindi non nemmeno particolarmente sintetica, ma piuttosto problematica, e quindi lascia aperto un ambito di riflessione ancora da sviluppare. Dico due o tre cosine, giusto come ulteriori spunti, che riprendono un po' le cose dette ieri, e poi devo pensarci un po' su, insomma, e vedere come si possono continuare a pensare. La prima sollecitazione che poi ha dato il via anche, diciamo così, alla mia riflessione su Illich, ma anche la seconda un po' più in corrispondendo a delle altre sollecitazioni attraverso Deleuze, attraverso la Rancière, eccetera eccetera, era quella che prendeva molto sul molto sul serio l'esergo di Ubaldo sulla questione dell'interrogazione, che mi sembra che in un momento come questo sia particolarmente rilevante, perché chiaramente l'urgenza della risposta spesso e volentieri confonde i piani, mentre un momento in cui si riesce a mettere a fuoco la domanda, la propria consistenza, il proprio portato di affettività iscritto nella domanda, e quindi anche a lavorare la domanda nell'ottica di un ipotetico scioglimento della domanda che lasci emergere altro, mi è sembrato un viatico che ha consentito l'acquisizione tra noi di una postura che mi pareva estremamente fertile. Che tipo di postura? Così me la sono vissuta e così me la voglio vivere anche oggi, diciamo così, di proliferazione che si auspica compositiva. E quindi non tanto di ricette, non tanto di contrapposizioni, ma piuttosto di un lavoro di traduzione. Un lavoro di traduzione che, traducendo, apre ad altri spazi, ad altre sensibilità, ad altre tecniche, ad altre anche linguistiche, ad altri registri, appunto dalla sociologia alla, tra virgolette, tante virgolette, alla pedagogia, alla quella sulla questione dell'attenzione, intendo, ma moltissime virgolette, e alla filosofia, anche questa tra virgolette, perché è molto complicato, insomma. Però in questo rilancio che accade attraverso le traduzioni, una cosa sul quotidiano che mi pare ho voglia di riproporre qui, come già detto un po' ieri, da un punto di vista, se si vuole, un po' filosofico, proprio per come ha chiuso questa mattina Ubaldo, dicendo che il quotidiano diventa particolarmente interessante in quanto luogo di affettività, di affezione e di affettività, ripeto quello che ho detto ieri, cioè luogo problematico entro il quale siamo e che siamo costretti a costruire, piano di immanenza nel suo dato, nella sua pesantezza, piano di immanenza che si tratta di creare. Questo è un altro spunto sul quale poi mi piacerebbe lavorare, ma mi sembra molto in sintonia. Ripeto, mi piace la questione della traduzione. Stessa cosa emerge da un discorso sociologico, in altri termini può emergere da un discorso più prettamente filosofico. Terza cosa, poi chiudo e lascio la parola a Cosimo e agli altri. Corpo, corpi, il Cox, cioè il luogo che ci ha ospitato. È un corpo, sicuramente è un corpo fatto anche di mura, eccetera, eccetera. Quindi quel minimo necessario, proprio queste mura, questo spazio, non sufficiente perché è abitato da dei viventi che hanno, come dire, hanno avuto una capacità di accoglienza e di, ma nemmeno di accoglienza è molto, una parola molto, come dire, molto riduttiva, assolutamente. Una capacità di, insomma, è difficile, di attenzione, di cura, sì, è veramente difficile, di amicizia, qualcosa del genere, nel quale veramente non ti senti nemmeno ospite, ti senti qualcosa molto di più, e quindi veramente un ringraziamento speciale a questo luogo, a queste persone che hanno reso possibile, perché tra l'altro tutto questo, le registrazioni, mica registrazioni, accadono perché c'è qualcuno che le fa, non va da sole, e quindi l'ultima cosa è questa, un vivo ringraziamento proprio. Vieni da così, tanto siamo, dai noi a così. Ciao Cosimo, buongiorno. Allora, come vedi, stiamo cercando, insomma, di stare più in una dimensione adesso di scambio, cercando di far emergere un po' quali sono i punti che saranno poi presenti, lo dirò alla fine, nel volume a gennaio, ma sui quali intendiamo lavorare segnatamente anche nei prossimi incontri che prevediamo. Prego Cosimo. Sì, no, io volevo riallacciarmi a quanto detto, soprattutto da te, ma raccontando un po' quello che sta succedendo in questo momento, in queste settimane in Francia. A proposito di quello che si diceva da una parte del desiderio sociale di fascismo e di altre linee di frattura. Allora, in queste settimane, in seguito a un fediver, come si dice qua, a un omicidio di una bambina da parte di una persona non un po' non stabile, ai margini e di origine straniera, e questo omicidio è stato recuperato un po' dall'estrema destra di Eric Zemmour, e sono sorte manifestazioni un po' spontanee in varie città francesi che gridavano a immigrati assassini e via dicendo. D'altra parte, in questo stesso momento, da diverse settimane, è in atto uno sciopero generale, cioè che è iniziato dal 29 settembre nelle raffinerie e si è esteso a tutti i settori, su parole d'ordine, su uno sciopero offensivo che reclama l'aumento dei salari al 10%, quindi superiore all'inflazione, e l'abbassamento del tempo di lavoro settimanale a 32 ore, quindi più salario, meno lavoro. Queste parole d'ordine che hanno, quindi, è anche una lotta che hanno dato luogo a una manifestazione anche contro il caro vita, sono state poi declinate anche da soggettività differenti, anche al di fuori dall'ambito strettamente sindacale, quindi diversi collettivi anche di studenti hanno ripensato cosa vuol dire sciopero adesso. E quindi c'è stato l'attacco alla piattaforma Parcoursup, una piattaforma appunto digitale che in Francia declina la selezione, questo algoritmo che declina la selezione all'ingresso dell'università, e anche come arrivare a sabotare anche a livello informatico queste diverse piattaforme algoritmiche che governano le nostre vite, soprattutto queste applicazioni legate ai dispositivi istituzionali che hanno funzioni prettamente di controllo. E sono state manifestazioni molto partecipate, e la sensazione collettiva era quella di era la prima volta dopo la pandemia che ci si ritrovava in tanti per le strade, e quindi anche questa sensazione di stupore di ritrovarsi fisicamente e poter discutere dopo questo periodo. Quindi il mio intervento era solo per descrivere le linee di frattura, quindi un movimento che comunque parte da questioni di bisogni vitali, il reddito, il tempo di lavoro, quindi una delle richieste anche collettive è la diminuzione dell'orario di lavoro settimanale, l'aumento del reddito, l'attacco alla caro vita che ora con la crisi energetica sta toccando anche qui un po' tutti, ma come questo, la questione dello sciopero, inteso come interruzione, anche interruzione delle funzionalità di cui si parlava prima, come interrompere, come rifiutare il ruolo, se lo sciopero è l'interruzione del tempo di lavoro, ma se nel nostro quotidiano il tempo di vita e tempo di lavoro sono ormai inseparati, come declinare quindi uno sciopero in questo contesto? Come quindi declinare uno sciopero che sia un'interruzione del normale, dei dispositivi che strutturano il nostro tempo di vita, lavoro, quindi questa è una degli interrogativi che ci si pone anche attualmente. Grazie Cosimo. Non so se mi avete Sì, sentito. no, perfettamente Cosimo, grazie, anche perché insomma un po' l'idea di avere più osservatori aperti è quello che poi ci interessa. Io lascerei adesso la parola ai nostri amici, se ci vuole, anche perché ci serve capire un po' in che modo siamo riusciti a interloquire. Vuoi? Ciao. Sono Olmo, ci conosciamo. No, chi lo sa? chi lo sa? No, nulla di particolare, nel senso che ho seguito con attenzione, i temi che sono emersi sono stati tanti. Diciamo, ho visto un filo rosso che ha tenuto insieme tutti i tavoli, quindi sono anche contento che si siano susseguiti in modo tale da poterli vedere insieme, avendone un'immagine in qualche modo. Ma poi le cose che sono emerse sono molte, però in particolare una, adesso diciamo la lancio anche un po' come stimolo, che mi è sembrata un po' tenere insieme alcuni punti diversi. E sulla quale mi interrogo, cioè se è vero un po' partendo da quel discorso che è stato fatto da Ubaldo ieri in apertura, questo scivolamento, del tempo di lavoro sul tempo libero, questa copertura in qualche modo da parte del tempo del lavoro su quello libero, se questa condizione è quella da cui partiamo e provoca in qualche modo tenendo insieme anche il discorso di Igor, questo aumento dell'attenzione in un senso diverso, frammentata, un'attenzione al pericolo in qualche modo, una performatività che diventa pervasiva, no, della vita. Se sono vere queste condizioni, allora quali sono, diciamo, le vie d'uscita? Il corpo, oggi è emerso il corpo, però ieri mi è sembrato un po' più attraverso diciamo, quello che ha detto Francesco e quello che ha detto anche Cosimo con l'idea di cioè l'utilizzo di Depor che ha fatto, che come via d'uscita da questo stato di cose si rilanciasse ancora una soluzione in qualche modo classica, cioè quella dell'arte che Francesco ha sottolineato molto. È stato citato Benjamin che parla dello smarrirsi della città come nella foresta, lui aveva in mente le passeggiate surrealiste, che poi sono in qualche modo l'origine, no, della deriva, quindi quel tipo di stare. Però mi è parso che Tiziana invece sottolineasse un aspetto che in qualche modo invalida questo tipo di soluzioni, cioè nel momento in cui il problema è che sospendere questo stato di cose, sospendere questo lavoro permanente, questa attenzione permanente, porta a un vero e proprio esilio, cioè a un'espulsione dall'urbano in questo caso, ma in genere, no? All'essere divorati in qualche modo da un meccanismo che è in atto e in ogni momento di sospensione porta, diciamo, all'estinzione di colui che ha sospeso, e penso anche a quello che ci diceva ieri Paolo, no? Questa lettera in qualche modo mi rende conto di questo fatto, cioè una mancanza di performatività, il non presentare un documento, una disattenzione che porta a non avere più possibilità di spazi, perché perché nel momento in cui si entra poi in un meccanismo giudiziario o banalmente in un circolo di multe, non multe, che portano a una quotidianità ancora più performativa, perché poi praticamente nel quotidiano significa girare per uffici, perdere le proprie giornate, non avere più quello spazio per quell'idea che era la passeggiata surrealista, no? La sospensione della performatività, l'emergere dell'irrazionale, l'emergere dell'inconscio. Dove lo puoi mettere se la tua quotidianità non permette questo aspetto? Allora, forse, diciamo, oggi quello che diceva Cosimo mi ha fatto ripensare a questo, che forse queste sospensioni di tipo artistico non hanno più spazio perché portano all'espulsione, invece queste dinamiche di insurrezione, di rivolta, di messa insieme altrimenti politiche hanno ancora uno spazio, ecco. Quindi forse, però mi interessava ritornare su questo aspetto dell'artistico, della disattivazione, del detournement, e chiedermi seriamente se hanno ancora possibilità, cioè se a vostro parere ad oggi hanno ancora uno spazio, ecco, se possono creare una crepa in qualche modo o meno. No, io volevo soltanto dire, sono Sandro Palazzo, in modo molto naif, semplicemente la risonanza emotiva di quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Innanzitutto un senso di accoglienza, è quello che che non è semplicemente accoglienza nel senso di condivisione, che è sempre più raro trovare. Dall'altro un senso di desolazione, nel senso che, ma ripeto, sto dicendo delle banalità, nel senso che le forme di resistenza intesa in senso lato alle crepe del presente o comunque di approfondimento delle crepe, sinché rimangono a livello di micro collettivi, temo che non abbiano incidenza. A me sembra che il punto nodale sia esattamente quella massa di disidratati o poveri che mi sembra anche politicamente abbandonata a se stessa, che di fatto non a caso alle volte diventa anche il bacino elettorale di movimenti che non mi pare che tutelino i loro interessi. Quindi la domanda che per me è fondamentale è come si può pensare una prassi che non sia la prassi di un microgruppo che si vede in un weekend condividendo dei momenti bellissimi, ma poi tornerà nei suoi spazi di lavoro, io tornerò a occuparmi di Fichte, qualcuno si occuperà di altro. Microgruppi che comunque vengono facilmente assorbiti dal funzionamento sistemico della società. Quindi il problema dove a me mancano completamente le risposte è in che modo la prassi può coinvolgere quelli che mi sembrano gli attori reali di un possibile mutamento, sia pure parziale, cioè non il critico, che comunque può avere un ruolo, ma la massa dei diseredati, cioè come parlare a loro. Grazie. Grazie a voi anche, perché sono questioni che non sappiamo. È chiaro che sono questioni aperte, poi ripeto, non sono questioni che ci sono a lato, ecco, io l'unica cosa che mi sento proprio di dire con forza è che di tutto quello di cui abbiamo discusso sono le condizioni di vita che ci attraversano. Mi sento di suggerire forse due intuizioni. Allora, posto che anch'io sono dell'idea che le micropolitiche, insomma, evocate da Francesco ieri, ma insomma con tutto il lavoro di Gattari prima, ma lo diceva lo stesso Gattari, di per sé non sono sufficienti a innestare trasformazioni in grado poi di innervare processi altri nel sociale. E questo nelle tre ecologie era già un problema posto con forza, ripreso poi fino alla sua ultima intervista rilasciata per la televisione greca. Penso, per essere onesta fino in fondo, che in questo momento, quello che diceva Olmo prima, abbia una valenza drammatica, perché la mega macchina di Gorz, quella burocratica, quella che ti impedisce negli ospedali di capire chi ti fa una diagnosi, chi ti curerà, chi ti si somministra le multe, con quali mezzi, no? E accesso, anche lì è una questione di sapere i minimi, ma c'è un discorso di età, di capacità, per cui se io non so andare sul sito a prenotarmi la visita, cioè, tutta una serie di questi problemi sono il frutto non di un disegno, io lo percepisco così, compiuto, ma di una macchina acefala che ha come unico movimento quello di mortificare i corpi, di mortificare le vite e di acuire quel sentimento di impotenza che io credo sia una delle altre grandi, no, chiavi di lettura di questo nostro quotidiano. Noi ogni giorno, altro che tempo libero e tempo di lavoro, siamo non solo al lavoro sempre, in qualunque momento e in forme diverse, ma siamo a rischio sempre. C'è un salto qualitativo, no, rispetto a quanto indicava De Boer, ma anche lo stesso Lefebvre su queste cose. Il salto qualitativo è che noi abbiamo a che fare per la sopravvivenza anche l'idea di essere costantemente chiamati a fare i conti con il rischio di espulsione, nientificazione, di metterci a giro in questa mega macchina che non si sa dove punti. Questo può avere a che fare con quella domanda che evocava Righetti, no? Angosciosa, di avere più controllo, come se il controllo potesse sopperire a un meccanismo ormai impazzito. Questo, diciamo, è il piano duro di lettura. Per contro, io sono anche convinta, ma non in maniera volontaristica, che poi anche laddove le forme di disgregazione, che come dicevo ieri, si ripetono nella storia, non sono definitive. Ecco, non le leggo come definitive, no? Per rispondere un po' a te, Sandro. Penso che siamo gravemente dentro questo passaggio, questo sì, ma credo che questa dimensione degli affetti spezzati, dei corpi umiliati, poi prima o poi ritrovano, no, un modo di posizionarsi. Io non lo chiamerei neanche meccanismo di resilienza, perché è una parola che mi piace poco poco. No, ma siccome nel dibattito ecologista con la quale ci vogliono far passare questa nuova religione per cui noi siamo resilienti come le piantine, ecco, sì, è una cosa che proprio non si può sopportare. Ma detto questo, invece credo che necessariamente, che è un po' in piccolo quello che stiamo cercando di fare qui, no? È questa ostinazione, che però è un bisogno esistenziale, di continuare a intercettare relazioni, scambi, pensieri, saperi. Allora, se c'è un movimento continuo che abbiamo continuato a fare, ma che molti altri fanno, insomma, certo, in questo momento in maniera più circoscritta e ridotta, io guardando le immagini di quel video prima, ricordo il modo corale molto più diffuso con il quale abbiamo iniziato il nostro lavoro, però non c'è mai venuta meno la voglia di continuare, uno, a pensare contro noi stessi, quindi a metterci in discussione, e ad essere molto attenti, molto nell'ascolto, che è un'altra dimensione che nell'oggi è abbastanza problematica, no? Perché se noi ci guardiamo un po' attorno, vediamo che la risposta a quanto dicevate voi prima è quella di un posizionamento narcisistico. È lutto quello, no? Nel momento in cui io ho bisogno di ripetermi, riposizionarmi e ricertificarmi, ho già perso. E quindi questo è un annuncio veramente dell'angelo nero della storia, direi. Per contro, però, le forme più attive di sottrazione sono quelle che invece continuano ostinatamente, con momenti di, come dire, tristezza, no? Evidente, a pensare che siccome tutto questo ci riguarda, non solo come individui, ma come società frammentate, costruisce, a mio avviso, costruisce nel tempo un po' quel lavoro sotterraneo. Anche qui torno, insomma, un po' ai nostri amici di sempre, Deleuze, Guattari, su questo hanno lavorato in maniera preziosa, no? Foucault su questo incontra un arroccamento a un certo punto. Sulla questione dello spazio, adesso qui non è il tempo e il modo di affrontarla, la quadrettatura, la perimetrazione, vuoi anche per il tipo di approccio un po', no, appunto archeologico, storico di Foucault, a un certo punto non coglie lo smottamento che per esempio viene più letto da uno come Mike Davis, che viene da tutt'altra formazione. Ma adesso, insomma, non voglio portarvi a tempo. Posso dire qualche cosa io? Sì, ancora? Ecco, cercando disperatamente di essere sintetico, perché ho raccolto un po' le vostre considerazioni che trovo importanti e tutte riferite bene a quello che è stato detto ieri, insomma, no? Ieri pomeriggio. Ecco, il tema, velocemente, è una linea che mi è venuta in mente sulla base di quello che appunto è stato fatto ieri e che avete detto, che abbiamo detto stamani. Allora, partiamo dal controllo, che è un grosso tema sottolineato ieri. Noi abbiamo bisogno di controllo, no? La piccola, la mezza provocazione di Stefano Righetti andava in questa direzione. Abbiamo bisogno di controllo perché siamo dentro a dei processi, stiamo dentro il flusso, il fluire, e quindi stando lì dentro abbiamo bisogno di arrivare a modalità di gestione, di governo del nostro stare lì dentro. Ecco, qui c'è la problematica, la questione di come qualificarlo questo governo, no? Anche, diciamo, in maniera ipotetica, come arrivare a una gestione che non sia, come al solito, penalizzante nei confronti di qualcuno o di qualche cosa. Ecco, è importante, è appunto cercare di evitare a tutti i costi quella che Tiziana ha definito come gestione selettiva, no? Una gestione selettiva è appunto quella che poi delinea, realizza, concretizza, insomma, dei territori che sono quelli dell'abbandono, territori dell'abbandono, oppure quelle modalità, mi rifaccio sempre a quello che ha detto Tiziana, di nomadismo, tra virgolette, indotto, quindi non vero e proprio nomadismo, no? Ecco, questo è un bel elemento di riflessione, a mio modo di vedere, i territori dell'abbandono. Ecco, siamo tutti, stando nei flussi, siamo tutti più o meno destinati a essere abbandonati, ad abbandonarci da qualche parte. Il problema è di come tradurre o accompagnare questa dinamica dell'abbandono alla riscoperta, valorizzazione anche di carattere politico del sentimento della fiducia. Mi abbandono a te, ho fiducia in te. Ecco, bisogna far sì che queste dinamiche dell'abbandono siano piegate in questa direzione. Cioè, bisogna veramente muoversi all'interno di questi territori, di questi spazi, no? Dando fiducia e avendo fiducia nelle relazioni, nei rapporti, nella possibilità di mettere in piedi delle politiche, no? Di un certo tipo, di un certo segno. Bisogna recuperare la fiducia, il sentimento della fiducia è fondamentale. Senza quel sentimento lì non fai gruppo, non riesci a mettere insieme delle persone che sono per qualche causa segnate nelle loro vite, nel senso appunto poi di essere consegnate ai territori veri e propri dell'abbandono, no? Diciamo della cessazione di sé, perché sono territori considerati ultimi o penultimi, insomma, per dirla altrimenti. Quindi c'è questo punto qui importante, e questo discorso sul bisogno, che poi è anche un bisogno politico, di recuperare fiducia, di prestare, di recuperare fiducia, mettendo in piedi, insomma, delle pratiche condivise, delle pratiche comuni. A questo discorso qui del recuperare la fiducia, io leggo in un qualche modo anche il ragionamento che è stato fatto sulla, diciamo, paradossale centralità della dimensione della corporeità, no? Perché il corpo, bene o male, e qui c'è una scommessa da giocare, che ovviamente non è una scommessa soltanto teorica, perché i corpi vanno anche fortunatamente oltre. Qui il corpo dobbiamo prenderlo, vale la pena prenderlo, nel bene e nel male, come fattore di identificazione. Il corpo l'ha detto molto bene Tiziana, secondo me, quando ha parlato dei ragazzi oggi, no? I ragazzi vedono nel proprio corpo, nella gestione anche, come posso dire, spasmodica della propria realtà corporea, l'ultimo veicolo, diciamo così, di una qualche identificazione, di uno straccio di identificazione, no? Di qualche cosa in cui riconoscersi, no? Come identità vissuta nel modo più singolare, più bizzarro, più strampalato possibile. È l'ultimo, e poi questo vale un po' per tutti, ma per i ragazzi che sono passati attraverso la pandemia, insomma, attraverso situazioni, diciamo, di arroccamento, vissute da loro come situazioni di arroccamento all'interno degli spazi del quotidiano domestico, ecco, il corpo vale veramente come un fattore straordinario di identificazione. Chi ha a che fare con i ragazzi, no, o figli o alunni, studenti, o comunque ci passa accanto, questo lo può vedere con grande facilità. Ecco, questo motivo qui del corpo come fattore, comunque è un fattore, sì, identifica e nello stesso tempo però scombina. Il corpo è un ben strano fattore di identificazione, perché il corpo ti permette una identità, no, di un qualche tipo, un segno, un disegno che riconosci come tuo, e poi a un certo punto se ne va per i fatti propri, no? Ti muove il corpo e ti smuove, diciamo così, smuove le identità che pensi di aver raggiunto e di poter proporre agli altri, no? In dinamiche che sono di riconoscimento, no? Dello stare assieme, insomma, agli altri. E qui devo dire, se posso prendere ancora qualche minuto, mi ha fatto piacere che sia passato adesso un video di questo nostro incontro qui collettivo, con tante amiche e tanti amici, con Primo, no? Con Primo Moroni, perché ecco, quando adesso non l'avete sentito, non l'avete ascoltato, ma comunque c'è, sono su YouTube, è possibile vederlo, è un bellissimo video, e lì Primo, con la solita simpatia e generosità, grande generosità, rispetto a Tiziana, rispetto, insomma, a Mille Piani, a quello che allora si tentava di mettere in piedi, tra le tante cose importanti che dice, insomma, che afferma, una mi ha colpito, no, nel pezzettino che ci avete fatto vedere, cioè che lui richiama, e non è banale oggi, devo dire, mi ha fatto molto piacere ricordarlo e sentirlo nella voce, nelle parole di Primo, ricordava l'attenzione a Ballard, e con, devo dire, straordinaria intelligenza, perché questo va detto, va riconosciuto, ovviamente sensibilità, già allora notava come lo schiacciamento di Cronenberg su Ballard fosse di fatto equivoco, cioè che Ballard eccedesse di fatto la presa, la cattura, no, cinematografica, comunque di grandissimo livello di Cronenberg, no? Non pensiamo a Crash, ma insomma tutto poi si tiene con un riferimento a Ballard in molta della produzione di Cronenberg. Ecco, lì mi ha fatto piacere, perché effettivamente noi Abbiamo lavorato e anche ieri è mancata, come ha ricordato Igor, la parte più propriamente dedicata all'arte, no? E, sì, però qualcuno ne ha parlato, qualche cenno, diciamo, è stato fatto, perché fa parte della nostra esperienza, no? Di ogni numero prestare attenzione alle espressioni artistiche, no? E poi anche noi, insomma, nel nostro piccolo ogni tanto cerchiamo di spingerci in quella direzione. Ecco, lì Ballard, tra virgolette, che non è tale, no? Come diceva giustamente Primo, catastrofista, no? È un Ballard ancora oggi importante, utile, insomma, va letto e riletto. La messa a tema di catastrofi, diciamo così, nel momento in cui si concretizzano e producono degli effetti, destabilizzano tutto e tutti, ecco, quella messa lì, messa a tema lì, di operata da Ballard, è qualcosa che noi in tempi di pandemia, di guerra, di fascismo, insomma, ritornante oggi a galla spavaldo e senza troppi problemi, senza troppe difficoltà, ecco, quel Ballard lì non è una lettura insignificante, no? Per cercare di avere maggiore attenzione rispetto a ciò che accade. Poi vado verso la fine, cos'altro è importante? Ecco, questo discorso sulla identificazione, sul corpo, su come si sopravvive. Questo discorso da collegare all'idea che si possa vivere attraverso una rilevazione di ciò che può essere considerato sufficiente nella articolazione e registrazione delle relazioni, dei rapporti, cioè delle affezioni di cui siamo capaci nel nostro quotidiano. Poi noi abbiamo bisogno di una misura, no? Il discorso sul controllo che si faceva prima, no? E se non vogliamo che il controllo poi si traduca in pratiche di selezione, con quello che significa, noi appunto, se non vogliamo questo, dobbiamo, dato che siamo nei flussi, siamo nei processi, abbiamo bisogno di controllare, di autocontrollarci, di darci una misura, ecco, una misura da cercare di mettere in piedi è quella, come ricordava Gorza, no? Autore carissimo a Tiziana, è quella del sufficiente, no? È quella del sufficiente. E per cercare di dare corpo, di dare sostanza a questa misura del sufficiente, cioè di una disposizione felice nei confronti degli altri, nei confronti della realtà, ecco che i modi del prestare attenzione, no? Come avete detto, dell'avere cura, sono modi fondamentali, prestare attenzione e avere cura, insomma, sono, ritornando poi a quello che ho detto inizialmente, l'abbandonarsi, l'avere fiducia, prestare attenzione e avere cura, sono due modi decisivi per tentare, come spesso si pasticcia oggi, confondendo forse piani che sono diversi, sono modi importanti per mettere in piedi un'etica, no? Come viene detto, della cura, che però si pieghi politicamente, no? Sia una vera e propria politica della cura. Vabbè, poi cos'altro? Il discorso sul rischio è importante, adesso non mi ricordo più niente della verità, ma insomma, tanto tempo fa, venendo da altri piani, insomma, di ragionamento e di riflessione, avevo buttato giù un libretto che si intitolava Soggetti a rischio, no? Prendendo in considerazione però tradizioni di ricerca di pensiero non nostre, non francesi, no? Ma soprattutto tedesche, arrivando fino a Luhmann. Allora c'era anche l'attenzione di un altro autore dimenticato, particolarmente vicino a noi, però molto attento, molto ospitale, come Pietro Barcellona, no? Pietro Barcellona lo ricordo, è stato uno studioso significativo, uno studioso importante, è stato direttore di quella rivista legata al Centro Studi e Riforma dello Stato, sulla riforma dello Stato di Ingrao, Democrazia e Diritto, e quando la diresse negli anni 90 ebbe il coraggio in quel contesto lì di coinvolgere Paolo Virno, no? E anche nel mio piccolissimo il sottoscritto, no? Nel lavoro di quella rivista per pochi anni, ovviamente. No, metà anni 80, ha detto una sciocchezza, non anni 90, metà anni 80. E vabbè, chiusa parentesi, niente, poi devo dire questo, volevo dire niente di più, niente di meno. Sì, abbiamo ancora pochi minuti, no, se vuoi aggiungere. Di chiudere. Sì, perché abbiamo... Ah, ok. Vabbè, allora, forse pochi minuti non riesco, però vabbè, allora per la domanda di Sandro comunque rimane, cioè non è in evasa o comunque... Come? No, no, nel senso che ho capito, cioè è anche un po' quella di... Ma a me veniva in mente questo, ma non vorrei fare la conclusione, mi sembra... No, poi devo fare delle comunicazioni. Ok, allora vado veloce. Io ripartirei per dire quello che dicevi tu, se ho capito bene, un'idea, il corpo, no? Il corpo oggi soffre, è malato, i corpi, bene, ma il corpo, riprendiamo Spinoza, perché no? Adesso poi ho anche scritto queste cose nei saggi che verranno pubblicati. Il corpo è dentro, i corpi sono nel conatus, che potrebbe essere anche quello degli automatismi globali che li muovono, eccetera. Quindi, secondo passaggio, il corpo resiste nello sforzo, conatus, cioè quindi c'è questa capacità, diciamo, naturale, diciamo, ma non naturale nel senso banale, nel senso di è già dentro un automatismo che fa muovere i corpi, che fa sì che ci sia la riproduzione, così io mi sposo così, faccio le famiglie, giri, linee de vie, eccetera, eccetera. Sto sintetizzando molto. Quindi, qual è il problema? Qui torniamo invece a Deleuze, lettore di Spinoza, uno dei grandi classici. Non sappiamo cosa può un corpo, i corpi direi, cioè non lo sappiamo, quindi... I corpi prefigurano futuri che appunto non sono necessariamente dentro, no? Il sapere come macchina e dunque quella cosa lì che comunque ti muove. Allora, se oggi i corpi soffrono, sono incisioni di minimi anche di vita perché abbiamo bisogno di sopravvivere, benissimo, però questo potrebbe essere un punto che ci unifica, che c'è già una, non voglio dire un collettivo che riguarda più un concetto legato ai soggetti, ma un essere trattino comune, se vuoi molto minimo, cioè il fatto che abbiamo dei corpi, il fatto che adesso non desiderano molto, che in questo momento soffrono, ma comunque la resistenza fa parte comunque, secondo Spinoza, di una... mi oppongo a che, no, in fondo alla sofferenza, però soffro come corpo, eh? Immaginiamo che il corpo parli, che l'arte fa parlare i corpi, proprio quelle immagini lì che abbiamo visto, no? C'era un corpo che soffriva, però anche... con della forza, avete visto, ovviamente le mie parole peggiorano sicuramente la resa di quella. E quindi sensibilità, aistesis, arte, quindi io direi che i corpi, secondo me, dialogano oggi moltissimo, molto più di quanto non immaginiamo, anche se c'è sofferenza, i corpi dei giovani che cercano qualcosa, questa è più una mia proiezione, mia sensibilità, non ho dati ovviamente di qualcosa che non può essere... per fortuna, tracciato, oggettivato in modo definitivo. Quindi parlerei forse di una condizione, tu chiedevi, c'è una possibilità per l'arte ancora concreta di fare? Io penso di sì, se però accettiamo l'idea di una condizione, diciamo, non prelogica, ma diciamo preartistica, proprio molto minima di base, dove questa sofferenza diffusa, che abbiamo visto anche in questa giornata, anche ieri, è molto, insomma, molto concreta, ecco. Può essere la leva per, come sempre è stato, no? Perché se non c'è sofferenza l'arte difficilmente produce, voglio dire, questa è una banalità. Quindi in questo senso io vedo il terreno però bisogna ripartire da, forse appunto da qualcosa come Spinoza, dall'idea di ammettere che poi il corpo, diceva giustamente Ubaldo, va un po' dove vuole a un certo punto. ti distrae come soggetto, no? Cioè, quindi c'è un gap anche politico, cioè non sai dove andranno questi corpi, bisogna immaginarlo, dicevano. Anche questo tema non è entrato come parola, se non, ma, però sapete, capite di cosa sto parlando, un'immaginazione che non è necessariamente, come dire, fuori dal movimento, anzi per fortuna è dentro il movimento dei corpi, che per Spinoza è questo enorme conatus che muove tutto, no? Dalle cose agli animali, insomma, conoscete forse meglio di me il grande Spinoza. E quindi cioè, i corpi veramente a volte risuonano tra loro, a volte invece ci sono dissonanze tra i corpi, ma questo fa parte delle dinamiche, cioè non sto parlando di che tutto va bene, tutti insieme andremo, no, la storia è questa, però questo livello di dissonanza, di, non voglio dire contraddizione perché è troppo su un altro piano, però questi livelli di giochi di forze, eccetera, oggi io li sento molto, molto vivi, molto, proprio perché c'è questa sofferenza, questa, a volte questa betisa, a volte questa anestetizzazione, ma tutto insieme non può che riguardare i corpi, cioè proprio come livello minimo, anche proprio banale, cioè non siamo altrove. Forse invece quando cominciamo con soggetto, parole come collettivo, eccetera, rischiamo di essere altrove, però ecco, questa è solo una possibilità che mi interessa sviluppare, e non so, potrebbe essere una strada perché per, no, fare da collante tra quello che si fa in una giornata come oggi e quello che magari questi 20.000, no, che ieri erano a Bologna o chissà altrove nel mondo, magari non siano troppo separati, ecco, è un po' una chiusa così, certo. Spero non sia solo utopia, però credo ci sia qualcosa utopia, che potrebbe funzionare. I movimenti funzionare. In corso, le donne iraniane che si tagliano i capelli, quelli sono corpi che si mettono in... Io penso che i linguaggi del corpo, che ci sfuggono spesso, sono in una maniera insopprimibile creativi, per cui se noi abbiamo una possibilità di avere un'immaginazione che sia anche produttiva, ci viene dal fatto che appunto corpo, organi e quant'altro non sono l'uovo chiuso prefigurato, no, nell'Antiedipo, ma sono questi linguaggi che sono in modo, come posso dire, insopprimibile, assolutamente creativi. Per questo che anche il discorso sull'arte, un conto è il discorso sul mercato dell'arte, sui modi in cui questa può essere all'interno di meccanismi, no, di assorbimento continui, ma non è rilevante. L'arte ha in sé un altro tipo di rilancio possibile, che è la sua capacità inventiva e di produrre lì si crepe. E quindi, insomma, su questi aspetti io sono invece profondamente positiva. Non sento uno schiacciamento appunto luttuoso, no? Che leggo piuttosto in certi meccanismi indicati prima, narcisismo and so on. Quindi io vorrei chiudere in modo da lasciare tutti nella condizione di raggiungere treni e quant'altro, dicendo però alcune cose. Allora, intanto ringrazio Manifesto Libri, che ci sta accompagnando negli ultimi anni in questo percorso, che ieri ha rilanciato e segnalato l'iniziativa e che con molta attenzione, insomma, ci permette di realizzare quello che stiamo facendo. In secondo luogo rammento che all'uscita del volume, che è prevista per gennaio, seguiranno iniziative di presentazione ulteriore nelle città in cui siamo presenti, perché poi anche qui veniamo da posti diversi. Che terzo, chi volesse acquistare il volume con la causale convegno, cioè questo, lo può acquistare al 50%, che è anche un altro grande regalo che Manifesto Libri ci fa, e che poi oggettivamente siamo qui, fisicamente qui, con tutta una struttura di amici e compagni che ci hanno permesso, come avete visto in quella clip iniziale, fin dall'inizio di trovare una corrispondenza, insomma un luogo del fare amicale nel quale ci siamo continuamente scommessi. Adesso rivedere Primo è per me sempre fonte di grandissima emozione, ma insomma è stato lui il primo, no, collettore di tutto quello che passava a Milano e non solo, riuscendo con la sua capacità di raccogliere anche sensibilità diverse a creare in questo posto qualcosa di unico. Qualcosa di unico perché le soglie, gli intrecci erano molteplici, diversi, e tutti si tenevano però con questa estrema tensione all'essere fuori, all'essere nei territori, ad essere in dialogo e restando fortemente su posizionamenti però critici, cioè senza no venir meno, senza piaggeria. Quindi è stato uno stile che si è prodotto, e questo stile io sinceramente l'ho incontrato qui, mio luogo di affezione elettiva, ma perché si sono costruite queste personalità intorno a questo tipo, no, di persone. Quindi io ringrazio ancora una volta Tommaso, Nicola, Roberto, tutti gli amici e compagni di Cox 18, Libreria Calusca e Archivio Primo Moroni. Grazie a tutti.